Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Vi ricordo la mail unabusoalgiorno@radio24.it. Vi ricordo anche il mio blog Guardie o Ladri, lo trovate sull'home page del Sole 24 Ore. Allora, tante volte nel passato abbiamo affrontato casi di mala amministrazione della cosa pubblica, qualunque livello essa entri in gioco. E tante volte nel passato abbiamo parlato anche di burocrazia malata. Già di per sé il termine burocrazia non indica nulla di buono. Spesso e malvolentieri lo abbiamo fatto scendendo nella penisola, quindi man mano che ci si spostava da Roma verso il sud i casi sono ahimè più frequenti, perché come spesso sapete al centro-sud il diritto spesso viene scambiato per favore, e in questo cattivo costume si insinua chi vuole giocare su questo. Difficilmente ci saremmo aspettati che questo continuasse ad accadere al nord, perché è sempre accaduto anche al nord, ovviamente anche se in maniera minore. Fa specie leggere quello che ho letto sul Gazzettino di Venezia giovedì 12 novembre 2009, quindi pochissimi giorni fa. Una storia allucinante che ricorda una che trattammo alcuni mesi fa in Sardegna, dove per un palo della luce l'imprenditore, tra l'altro un imprenditore lombardo, dovette aspettare anni e anni e anni per la rimozione di quel palo della luce per poter impiantare la sua impresa. Allora, siamo appunto a Spinea, comune in provincia di Venezia. Accade che un imprenditore confeziona una impresa nuova di pacca, come diciamo noi romani, proprio bella, precisa, che aspettava soltanto di essere aperta, scusate se sorrido. Insomma, questa azienda, costata alla bellezza di 3 milioni di euro in investimento, non può aprire. Voi dite, vabbè, non apre per chissà per quale motivo. No, attenzione, l'azienda è bloccata perché da 11 mesi sta attendendo l'allacciamento del gas. Di questa storia francamente incredibile io voglio parlarne proprio con il titolare dell'azienda che si chiama Ceado, Paolo Girardi. Buongiorno Girardi. Buongiorno a lei. Allora, innanzitutto, voi che tipo di valore aggiunto create sul territorio? La vostra azienda è un'azienda innanzitutto florida, le chiedo, e che cosa producete? Sì, la nostra è un'azienda specializzata nella produzione di attrezzature professionali che vanno nei bar, quindi macina caffè, centrifughe, spremi agrumi, tutti prodotti che vengono venduti a dei professionisti. L'azienda l'anno scorso ha fatturato 4 milioni e mezzo di euro, nonostante quest'anno sia stata la crisi stiamo registrando l'apertura di nuovi mercati, perché abbiamo da poco esposto i prodotti nella più importante acciaieria del settore e nuovi mercati come gli Stati Uniti d'America ci stanno rispondendo bene. Ecco, quindi abbiamo... siete un'impresa, diciamo così, un po' in controtendenza rispetto alla crisi attuale, tanto che avete pure investito 3,5 milioni di euro per questo ampliamento, per questa nuova sede aziendale, dico bene? Dice bene, e non solo investimenti mirati ad una nuova struttura, ma anche investimenti mirati alla certificazione dei prodotti per la vendita in mercati lontani, innovazione su per presentare nuovi prodotti che ci consentissero di raggiungere mercati che fino all'anno scorso non erano raggiungibili per noi, quindi diciamo una serie di investimenti a tutto campo che in un certo senso sono uno degli pochi strumenti che hanno le piccole aziende per poter competere a livello internazionale, quindi flessibilità e capacità di proporsi magari con vesti nuove in momenti in cui i mercati si rallentano, si fermano. Assolutamente, oltretutto ricordiamolo, sarò noioso, lo ricordo sempre, ma lo sapete perfettamente, le piccole, piccolissime imprese e le medie imprese sono la spina dorsale economica di questo paese. Affrontare una piccola o media impresa, come il caso della Ceado di Spinea, vuol dire davvero affossare quello che è il futuro del nostro paese. Girardi, lei a quante persone dà lavoro? L'azienda occupa 25 persone attualmente. Benissimo, più ovviamente avrete anche una rete commerciale, suppongo, di persone. Certo, abbiamo una rete commerciale, ci appoggiamo a dei rivenditori. imprenditori e quindi chiaramente si genera anche un indotto. Esattamente, proprio qui volevo arrivare. Allora, voi circa un anno fa, praticamente con la sede pronta, avete contattato Enel Gas per farvi fare un normalissimo allaccio del gas. La vicenda comincia più di un anno fa, nel senso che noi la richiesta l'abbiamo fatta a Enel il 27 giugno 2008. La richiesta effettuata il 27 giugno 2008 e protocollata da Enel ha generato un preventivo emesso da Enel in data 15 ottobre 2008. Preventivo pari a? Un preventivo di 2.370 euro per spese generali, manodopera, materiali, certo, prestazioni terzi per l'allacciamento del gas. Quindi rispetto, diciamo, ad un investimento di 3 milioni e mezzo, suppongo che vi sarete rivolti a delle banche o non so se... Ecco, appunto, non credo un autofinanziamento perché di questi tempi è un po' complesso. Vi sarete rivolti alle banche, avete contratto i vostri mutui e come spesso sappiamo le banche poi sono loro che la fanno da padrona nei confronti dei rapporti con le imprese. Insomma, questo sano imprenditore del sano nord-est italiano decide di continuare a dare lavoro. Lele non risponde. È straordinario, Girardi. Perché non risponde Lele? Bisognerebbe chiederglielo. Vedo dal foglio che mi mandano, dove c'è scritto preventivo per l'esecuzione dei lavori semplici, l'intestazione è Enel, l'energia che ti ascolta. E certo, chissà che non ci ascolti. Che ti ascolta ma non ti risponde. Almeno fino ad oggi non ci aveva risposto. Assolutamente, ecco, ma oggi vi ha risposto o crede che vi risponderà? Allora, noi dopo varie vicissitudini, ripeto, la vicenda va avanti da molto tempo, abbiamo deciso di rivolgersi, dopo essersi rivolti a un legale, dopo che il legale aveva intimato ad Enel di adempiere, perché attenzione che Enel, poi noi questo preventivo l'avevamo pagato il 17 di dicembre del 2008 e Enel questi soldi li ha intascati, quindi ci sarebbe anche da chiedersi cosa fanno quei soldi dei loro clienti se poi i lavori non li svolgono. Certo. Dopo aver incaricato un legale di intimare l'esecuzione dei lavori ad Enel e non aver ottenuto risposte o nessun tipo di riscontro nell'arco di un mese e mezzo, abbiamo detto proviamo a rivolgerci alla stampa e quindi abbiamo mandato un comunicato stampa ai giornali locali che è stato fortunatamente accolto molto professionalmente dai due giornali locali, in particolare il Gazzettino e la Nuova Venezia. E tempo che con i mezzi che sono messi a disposizione dei giornalisti sono riusciti a parlare con Lenel, personale, certo. Esatto, perché noi con l'Enel provavamo a parlare ma sbattevamo contro un muro di gomma fatto dai soliti call center dell'Enel che ti ascolta, certo, ma che in realtà non ti risponde. Ecco, okay? Ma ad un certo punto quindi Enel Gas però anche per l'intervento in alcuni mesi fa dei nostri colleghi vi ha risposto, vi ha detto qualcosa? L'intervento dei vostri colleghi è stato effettuato, l'articolo è uscito oggi, è stato ovviamente lavorato, l'articolo è uscito il 12 di novembre, era stato lavorato il giorno prima e la sera stessa dell'11 novembre, quando sia Nuova Venezia che il Gazzettino avevano contattato Enel, certo, Enel si era premurato di informarsi e aveva rilasciato un comunicato stampa dove diceva che ci scusiamo con la CEADO SRL per l'inconveniente, purtroppo abbiamo registrato un disallineamento nei nostri sistemi che ha impedito la rilevazione del pagamento del cliente. E questo lo dico anche ai fini dei nostri radioascoltatori, noi non abbiamo sentito Enel Gas come facciamo solitamente, sì, sentendo sempre tutti, proprio perché la risposta di Enel Gas è stata consegnata all'imprenditore, proprio perché nei giorni scorsi i nostri colleghi si sono mossi giustamente, doverosamente, sentendo anche la controparte prima di scrivere l'articolo che è uscito il 12 novembre. E a questo punto suppongo che voi vi aspettiate che finalmente vi allaccino questo benedetto gas. Ovviamente ce lo aspettiamo e staremo attenti a che la cosa si svolga al più presto, perché poi l'iter non sarà ultimato, perché dovremo confrontarci di nuovo con questo caso col comune di Spinea, che dovrà rilasciarci l'agibilità del locale, perché ovviamente io non potevo procedere oltre con quello che è l'iter classico della costruzione di un, certo, di un nuovo edificio, perché adesso per poter chiedere perché il comune mi rilasci l'agibilità del nuovo locale devo avere tra i vari documenti anche l'allacciamento del gas. E quindi passeranno altri mesi? Spero di no, spero che andando al comune, facendo presente che già per dei disguidi è stato perso un periodo così lungo, certo, il comune capisca capisca le nostre necessità e il fatto che avendo la nuova struttura potremmo ulteriormente ampliare il nostro lavoro. Ecco, le chiedo, avete fatto casomai una stima dei danni ricevuti per questo mancato... È difficile sempre quantificare, certo. Ma da un punto di vista pratico, all'ultima fiera alla Host di Milano, dove abbiamo presentato i nostri prodotti, per dire, si sono presentate nel nostro stand grandi catene americane. Quando parlo di grandi catene, senza far nomi, insomma, noi forniamo dei prodotti a catene che operano a livello globale. Poter inserire in queste catene uno dei nostri prodotti significa poter ampliare di molto la nostra produzione. Certo. Trovarsi nell'imbarazzo di non essere nella condizione di sottoscrivere un contratto per la fornitura dei prodotti, magari per un singolo prodotto che va in 30.000 negozi, potrebbe essere stimata in qualche centinaio di migliaia di euro. Certo, assolutamente. Questo per un solo contratto. Per un solo contratto. Poi, sa, sono sempre stime che è difficile mettere nero su bianco e spiegare, perché poi alla fine il contratto non lo sottoscrivi perché non ti senti in condizioni di poterlo sottoscrivere, quelli li hai persi o li avresti persi comunque. Assolutamente, comunque. È una condizione veramente incredibile quella in cui spesso si trovano a lavorare i nostri imprenditori, ripeto, la spina dorsale economica e spesso anche sociale del paese. Io ringrazio l'imprenditore Paolo Girardi, gli auguro ovviamente buon lavoro, saremo di nuovo qui se il caso non si risolverà. E ringrazio in regia Pietro Lacorte, in studio Elisabetta Fusconi, Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata.